Noi abbiamo incontrato i migranti, nello specifico del centro Mattei, che erano ovviamente preoccupati e si stavano, diciamo, auto-organizzando per mantenere il più possibile delle condizioni di igiene e di mantenere gli spazi salubri all'interno del Mattei. Oltre a questo, i migranti hanno deciso di fare una denuncia delle condizioni del Mattei, una lettera aperta appunto, per chiedere alle istituzioni, a comuni, prefettura, questura, regione, di prendere delle iniziative affinché la salute delle migranti, dei migranti, degli operatori, tutti quelli che lavorano lì, sia tutelata. C'è da dire che il Mattei, anche diciamo indipendentemente da questa crisi, è una struttura con spazi insalubri. Ci sono camerate in cui sono stipati 10-12 migranti senza finestre, alcuni dormono in container dove di nuovo ci sono 14 persone dentro che ci vivono, ci sono tubi dello scarico fognario rotti, cioè è una situazione anche male, sarebbe inaccettabile. Adesso la cosa diventa un pericolo e un rischio per la salute di tutti quelli che vivono lì dentro. Anche gli operatori e le operatrici che sono costretti a lavorare sono dotati delle misure di sicurezza, mascherine, guanti, che voi sappiate? Sì, che io sappia sono state prese qualche misura di tutela di chi ci lavora dentro, però ecco, cioè, non sappiamo nemmeno se in caso il contagio arrivi in un centro come quello del Mattei, ma probabilmente anche in altri, per esempio la struttura è in grado di garantire l'isolamento delle persone contagiate. Inoltre poi ci sono dei problemi anche, diciamo, strutturali, nel senso che alcuni migranti non hanno la copertura sanitaria, si devono pagare i farmaci da soli e lo devono fare a prezzo intero. Molti di quelli che stanno al Mattei sono gli stessi, tra l'altro, che lavorano all'Interporto, per esempio, che fanno gli operai, e quindi che, come sappiamo, i decreti ministeriali tengono aperte le fabbriche e i magazzini della logistica affinché la distribuzione delle merci continui, e quindi diciamo che la richiesta di stare a casa propria che ha fatto il governo come se fosse una tutela evidentemente non è così per tutti, nel senso i migranti che tornano a casa in stanze sovraffollate sicuramente non possono sentirsi sicuri a casa propria. Sappiamo che questa è anche una conseguenza delle leggi Salvini che hanno distrutto sostanzialmente l'accoglienza diffusa, favorendo i grossi centri dove sono concentrate molte persone. Voi chiedete invece che vengano distribuite. Sì, assolutamente, nel senso che servono delle procedure di emergenza, come in questo momento stabilisce pure la legge, affinché ogni tipo di assembramento, anche dormitori, mense, venga suddiviso in più strutture differenziate, in modo da garantire tutte quelle norme che stiamo praticando tutti in questi giorni. Per questo, insieme all'ASGI, insieme a USB, insieme a tutte le associazioni delle comunità dei migranti di Bologna, a tutti i soggetti politici, sindacali, associativi che hanno a cuore la salute dei migranti, abbiamo fatto questo appello pubblico.